La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, l'ora settimanale di cinema di Radio 24. Tre nuovi film arrivano nelle sale italiane in questa settimana, un po' interlocutoria prima che si scateni la vera e propria battaglia di Natale nel prossimo weekend. Nella nostra trasmissione però anche spazio a un paio di libri che sfiorano argomenti laterali ma molto interessanti del cinema, come il gusto del cinema e il suo rapporto con la matematica. Abbiamo anche ampliato lo spazio dedicato ai DVD perché sta arrivando Natale, quindi vogliamo darvi qualche consiglio in più. Non mancheranno le nostre rubriche, tante interviste esclusive. Andiamo a sentire i nostri titoli di testa. 10 inverni per un amore. Valerio Mieli racconta la sua opera prima con Isabella Ragonese e Michele Riondino. Il corpo di Jennifer, la penna di Diablo. La sceneggiatrice Diablo Cody, premiata per Juno, parla di Jennifer's Body, un horror tutto al femminile. Quando l'Europa non dice welcome. Commuove il film sull'epopea di un giovane clandestino che attraversa l'Europa cercando il suo amore. Lo firma Philippe Lioret, ospite della Rosa Purpurea. Che sapore ha un film e quanta matematica c'è nel cinema? Sono i temi di due libri da pochi giorni sugli scaffali. Incontriamo gli autori. Ci siamo? Ma è un foglio. Su internet c'era solo questo. Siamo qui riuniti stasera per sacrificare il corpo di... Come ti chiami, Tiffany? Mi chiamo Jennifer. Ottimo. Siamo qui riuniti stasera per sacrificare il corpo di Jennifer di Devil's Kettle. Per favore, vi prego. Claro, qualsiasi cosa, tutto quello che volete. Tu lo sai quanto è dura per un gruppo rock indipendente come noi? Ce ne sono così tanti che se non vai al Letterman Show o non fai una colonna sonora del cazzo, sei fottuto. Capito? Satana è l'unica speranza. Vogliamo fare un patto con lui, quindi dobbiamo fargli una buona impressione. E per stupire Satana possiamo solo sbutellarti e dissanguarti. E poi Dark si metterà la tua faccia. Rilassati, questa era una battuta. Ma tutto il resto succederà però. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our... L'avete capito, Jennifer non farà una bella fine. Stiamo parlando di Jennifer's Body, anzi non farà proprio alcuna fine, visto che dopo essere stata seviziata e uccisa dal suddetto gruppo rock indipendente satanico, rinasce più arrabbiata e più bella che mai, visto che lei è Megan Fox, e anche più affamata di ragazzi, in senso antropofago. Insomma, se li vuole mangiare tutti i suoi assassini, ma farà anche molte altre cose, anche vivere come una ragazza normale, con l'amica Needy, l'Amanda Seyfried di Mamma Mia, la ricordate? Che però a un certo punto capirà l'essenza diabolica di chi le sta di fronte e comincerà a temere. Jet mi sembra molto carina ultimamente. Ho tanta voglia di assaporarlo meglio. Non sei mai stata una buona amica. Potevi avere chiunque, perché? Sì. Tu uccidi le persone. No, io uccido solo i ragazzi. Paura. Sì. You hit me once, dirige Karin Kusama su soggetto e sceneggiatura di Diablo Cody, pseudonimo di Brooke Basey Hunt, 31 anni, ex spogliarellista e blogger di Chicago, ma soprattutto sceneggiatrice di uno dei film più belli visti negli ultimi anni, Juno, di Jason Reitman, del quale a gennaio vedremo tra l'altro lo splendido Up in the Air con George Clooney. Insomma, un personaggio questa Diablo Cody che al Noir in Festival di Courmayeur, dove Jennifer's Body è stato presentato in anteprima, ha spiegato così l'origine del suo nome. When I started writing, I was writing anonymously. Quando ho iniziato a scrivere, l'ho fatto in maniera anonima. Non mi andava che la mia famiglia sapesse cosa stessi scrivendo. Quindi mi sono scelta questo nome cercando quanto di più dark, oscuro e minaccioso mi potesse venire in mente, cosicché nessuno potesse indovinare che fossi io. Ovviamente ora questo nome mi segue ovunque e devo conviverci nonostante mi faccia un po' ridere. Il film racconta la trasformazione di una brava ragazza in una figura diabolica e di una relazione tra due amiche dai contorni sfumati che sfocia in situazioni di omosessualità. Quanto c'è di Diablo Cody in queste situazioni? Certo che ho avuto esperienze di quel tipo. È un'esperienza alla quale riesco a rapportarmi personalmente. Mi rendo conto che questo tipo di rapporto tra due amiche non viene descritto molto frequentemente al cinema o nei libri. È un rapporto complesso fra due donne, migliori amiche, platonico ma sessuale allo stesso tempo. Io ho vissuto con me stessa questo conflitto tra l'essere, diciamo, una brava persona o una persona egoista. Credo che le donne in particolare soffrano di questo complesso. Nel film il conflitto avviene tra due ragazze, ma nella vita reale credo che sia interno ad ognuna di noi. In the film it plays out with two girls, but in real life I think you can find it in one. L'horror è da sempre un genere prettamente maschile. Qui regista, sceneggiatrice, protagoniste, situazioni sono totalmente femminili. Era quel che cercava? È interessante perché nei film horror ci sono un sacco di ragazze, ma quasi mai un film è visto dalla prospettiva delle adolescenti e mai è stato scritto da una donna. Negli horror ci sono personaggi femminili anche molto potenti. Ma io volevo fare un horror costruito da donne e non da un uomo che crede di sapere quello che le donne pensano. È strano da dirsi, ma il genere horror in America è forse il genere più femminista. Horror has always been the most feminist in a strange way. E questa era Diablo Cody alla Rosa Purpurea per parlarci di Jennifer's Body, uno dei film in uscita questa settimana. Un'occhiata alle classifiche del botteghino dello scorso weekend, che trovano al primo posto A Christmas Carol con 3.370.000 euro di incasso. Christmas Carol che è riuscito a scalzare Checco Zalone con il suo Cado dalle nubi, che però è al secondo posto e ha già incassato un totale di 6.500.000. Si avvia a essere uno dei film di Natale più remunerati. Terzo posto per Dorian Gray, che resiste piuttosto bene. Scende al quarto New Moon, il nuovo capitolo della saga di Twilight, ma l'incasso globale ormai sfiora i 16 milioni di euro. Al quinto posto un'altra new entry, quella di A Serious Man dei fratelli Coen, con un incasso abbastanza basso. Delude, devo dire, L'uomo nero di Sergio Rubini, ottavo posto, solo 392.000 euro di incasso al primo weekend. La Rosa Purpurea. Le note della musica straordinaria, scritta e composta da Nicola Piovani per il film Welcome di Philippe Lioré, introducono la seconda parte della Rosa Purpurea per parlare di questo film che è stato un vero e proprio caso in Francia. Pensate, oltre 10 milioni di euro di incasso per un film importante, duro, di grandi contenuti, un film, fra virgolette, impegnato, anzi, togliamoci pure le virgolette, ma insomma per... così cercare di descrivere il genere a cui spesso queste storie straordinarie vengono attribuite. Ebbene, welcome, benvenuti, un'Europa che forse non sa più dire questa parola come poteva fare fino a qualche decennio fa. È un film che racconta un'amicizia e un amore, un'amicizia vera anche se casuale, un amore invece cercato ma mai trovato. Simone è un istruttore di nuoto in una piscina comunale a Calais, e anche questo è importante, la location, il luogo, questo crocevia di emigrazione e immigrazione che è Calais, nel nord della Francia. Simone è in crisi con sua moglie, svolge il suo lavoro come una banale routine, istruttore di nuoto nella sua piscina, fino a quando non incontra Bilal, un giovane curdo che ha attraversato l'Europa da clandestino, e se ne vedono alcune fasi davvero drammatiche, fino a raggiungere appunto la Francia con l'idea di trovare la sua ragazza in Inghilterra. La sua ragazza è emigrata con la famiglia, tra l'altro lui è rifiutato un po' dalla famiglia di lei. Bilal si mette in mente quest'idea straordinaria e difficilissima: attraversare l'Europa, arrivare in Inghilterra, forte solo di una foto e di una promessa. In questo percorso Bilal arriva appunto a Calais, dopo un tentativo fallito di varcare la frontiera a bordo di un camion come clandestino, e si trova nella piscina di Simone. Si introduce nella piscina per andare a fare una nuotata. In realtà il suo vero desiderio è quello di imparare a nuotare talmente bene da cercare di attraversare la Manica a nuoto per arrivare appunto in Inghilterra e cercare di trovare e salvare il suo amore, promessa sposa di qualcun altro. Ecco, qui siamo già nei dintorni di Alessandro Manzoni, o forse anche di Shakespeare. C'è insomma un po' di respiro della grande tragedia, del grande dramma, sia romanzesco che letterario. Ovviamente Simone troverà in Bilal una ragione di vita, Bilal troverà in Simone l'appoggio che aveva sempre cercato. È un film di straordinaria tensione, è molto commovente, un film sulla forza dell'amore, di questo ragazzo che attraversa l'Europa, appunto, come dicevamo, senza alcuna certezza. C'è forse qualcosa addirittura di mitologico in questa situazione, e noi di questo vogliamo parlare con il regista Philippe Lioré, che ci ha rilasciato questa intervista esclusiva, proprio del carattere epico e mitologico del suo personaggio. Le scénario commence à m'intéresser quand je me dis... Una sceneggiatura comincia a interessarmi se dietro ci vedo qualcosa della tragedia greca. laddove scorgo la presenza di elementi drammaturgici che mi fanno pensare appunto alla tragedia greca, anche quando si tratta di una commedia, allora penso che siamo sulla strada giusta. Cosa c'è invece dietro il titolo Welcome? A chi sa dire benvenuto l'Europa di oggi? L'Europa di oggi non dice benvenuto a molte persone, purtroppo. Ho scelto questo titolo perché è ironico. L'idea mi è venuta mentre facevo spese in un centro commerciale. Ho visto uno di questi zerbini con scritto Welcome. E mi è sembrato che questa parola riassumesse tutto. Non ce la faccio più. Simon. Vivere senza di te per me è impossibile. Faccio solo stronzate. Simon, sta fermo. Ti prego. Ci può raccontare che cos'è il microcosmo del confine di Calais, che è poi un po' al centro degli scambi, dei momenti più difficili e più drammatici del film, e che poi ricorda tanti altri confini. Ecco, questa descrizione di Calais ha fatto persino arrabbiare un ministro in Francia. Ecco, può raccontarci un po' questo microcosmo? Quando ho avuto l'idea di fare questo film, avevo bisogno di un soggetto valido dal punto di vista drammaturgico e questa storia mi sembrava adatta ad un film. Naturalmente poi dovevo inserirla in un contesto e quindi sono andato a Calais per vedere da vicino che cos'era questo mondo. Sono arrivato lì con l'atteggiamento di un cineasta, di un regista. Ma poi ho visto con i miei occhi questi ragazzini, anche neonati, che vivevano in condizioni terribili, nel fango, al freddo sotto la pioggia. Sono rimasto davvero scioccato. Ad aiutare queste persone ci sono solo i volontari delle organizzazioni, che però agiscono sotto la stretta sorveglianza della polizia. Posso dire di aver cominciato questo film da cineasta e di averlo concluso un po' più da cittadino. Un'ultima domanda. In Francia però Welcome è stato un successo clamoroso al botteghino. È segno che la questione dell'immigrazione è più sentita e assimilata dalla gente comune che non dalla politica? Aux politiciens d'extrême droite comme Éric Besson a l'air de l'être, oui. Ma questo vale per i politici di estrema destra come Besson, non per gli altri. Oltre ad aver avuto un grande successo di pubblico, il film recentemente ha ricevuto il premio Lux, assegnato dal Parlamento europeo. Questo significa che 500 deputati europei hanno scelto di votare per il film. E questo dimostra qual è lo stato d'animo dell'Europa sulla questione, che con questo premio ha anche espresso la propria disapprovazione verso la politica di Sarkozy. Ed era Philippe Lioré, ospite qui alla Rosa Purpurea, per parlarci del suo Welcome, straordinario film in uscita in Italia. Ricordo anche, tra l'altro, il grande protagonista, perché lo merita totalmente, Vincent Lindon, un grande attore francese nei panni appunto di Simon, l'istruttore di nuoto. Andiamo a giocare insieme la prima traccia del DVD Game di questa settimana. Devo subito dirvi che abbiamo tirato fuori un film che è un vero capolavoro sconosciuto o meno conosciuto, è una vera e propria chicca, ma forse un po' più difficile delle altre settimane. Allora abbiamo deciso di tenere le tracce un po' più lunghe, magari nel corso della trasmissione anche di aiutarvi un po', però sforzatevi, perché è tratto da un libro del mistero e dell'orrore, un classico di questo horror gotico che forse molti di noi e molti di voi hanno letto, magari anche in gioventù. Cominciamo a sentire la prima traccia. Quando è morta? Vostro fratello nella sua lettera ha tralasciato di precisarmelo. È morta circa 3 mesi fa. 3 mesi? Perché non mi avete avvertito prima? Mi dispiace. E come è morta? Non sono al corrente dei particolari, signor Barnard. Vedete, questa non è più casa mia. Io ero andata via parecchi mesi prima che Nicholas sposasse vostra sorella. Volete farmi credere di non sapere come... In nome del cielo, che succede? La Rosa Purpurea, @radio24.it per indovinare e vincere il DVD di questo film. Più tardi, altre possibilità. Ciao. Senti, posso entrare? Perché? Ho sbagliato fermata e ho perso l'ultimo vaporetto. Guarda, non so proprio dove andare stanotte. Posso? Vabbè, dai, almeno una coperta me la dai. Vabbè, entra. Posso? Grazie, Permesso. Piano e poi non dire quel che hai detto già. le bugie non invecchiano. C'è anche Vinicio Capossela che sta cantando Parla Piano nel cast visivo con un cameo e anche sonoro di 10 inverni, il terzo film di cui ci occupiamo in questa puntata della Rosa Purpurea, un bel esordio italiano di Valerio Mieli. 10 inverni sono quelli che sono serviti, che servono ai due protagonisti di questo film, Silvestro e Camilla, per innamorarsi, o meglio, per riconoscere un amore che tutto sommato si capisce già dal primo approccio, l'avete sentito prima in quella clip, due ragazzi che hanno fatto insieme il tragitto in vaporetto a Venezia per arrivare nella loro destinazione. Lui si trova così fuori dalla meta che voleva raggiungere, chiede appoggio a Camilla, che è un po' riluttante, alla fine decide di ospitarlo per una notte. Non succede alcunché durante quella notte, ma comincia a scoccare una scintilla, però una scintilla che ci mette 10 anni a maturare. 10 anni passati a prendersi, a lasciarsi, a rincorrersi, a non dirsi mai l'amore che si prova l'uno per l'altra. E forse c'è qualcosa di universale anche in questo atteggiamento, come sentiremo fra poco anche con Valerio Mieli. Girato in una strepitosa Venezia, strepitosa nell'accezione che appunto abbiamo visto sul grande schermo, una Venezia alternativa, diversa, quotidiana potremmo dire, quindi non quella da cartolina che di solito i media ci fanno vivere, che è lo sfondo ideale per questo amore appunto mai consumato fino in fondo, e forse proprio quando le aspettative diventano alte arrivano anche i momenti di rottura più devastanti. Oh, che è successo qui? Questa sorpresa. Oh, scusa. Non ci posso credere. A che cosa non puoi credere? Hai scopato con una nel mio letto, ma che schifo! Vabbè, non ti preoccupare, cambio le lenzuola appena va via. E questa è una delle litigate, delle scene madri, diciamo così, di questo 10 inverni. E tra l'altro ci deve essere anche un momento in cui il cinema racconta gli amori che si consumano a lungo tempo, a lunga scadenza. Pensate anche a 500 giorni insieme, che è già nelle sale italiane. Interpreti Michele Riondino e Isabella Aragonese, bravissimi, soprattutto Isabella Aragonese, anche Michele Riondino assolutamente in palla, Isabella Aragonese sta diventando un po' una di quei personaggi su cui il cinema italiano può cominciare un po' a contare. Ma andiamo ad ascoltare l'intervista al regista Valerio Mieli. Allora Valerio, parliamo di questo film, e la prima cosa che ti chiedo è: perché hai deciso di raccontare 10 anni nella storia di un amore inseguito, mancato, ripreso per i capelli? Ecco, perché un lasso di tempo così ampio per raccontare i tuoi personaggi? Allora, perché la storia avesse un senso era necessario che si svolgesse su un ampio lasso di tempo. Noi raccontiamo di un amore che si snoda in tanti modi prima di arrivare non ve lo dico, però so prima di arrivare, e questo aveva senso se allora si svolgeva su un lasso di tempo. In realtà avrebbe potuto essere più ampio, anzi io ho avuto il dubbio all'inizio se fare una cosa addirittura su una vita. Però 10 anni secondo me era il minimo per raccontare un passaggio e un cambiamento. È il tempo minimo perché due persone possano davvero cambiare e diventare compatibili o più compatibili. Io sono Silvestro. Camilla. Piacere. Bel nome Camilla. Veramente ti piace? No, però dico così per dire. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, noi proseguiamo dopo aver analizzato quelli che sono i film in uscita in questo fine settimana con due libri, due colleghi che hanno scritto due libri abbastanza bizzarri, abbastanza strani e per questo interessanti. Si tratta di Marco Lombardi, che ha scritto un libro che si intitola Cinegustologia, e adesso ci spiegherà anche di cosa si tratta, ovvero come descrivere i vini e i cibi con le sequenze della settima arte. Edito da Il Leone Verde Edizioni, è con noi Marco Lombardi. Ciao Marco! Ciao Franco, buongiorno. Ecco, aspettiamo un attimo perché abbiamo anche l'altro ospite, Paolo Perrone, un altro collega che si occupa da tanti anni di cinema, che è in collegamento con noi e che ha scritto invece Quando il cinema dà i numeri, un libro sul rapporto fra il cinema e la matematica. Paolo, eccoti in linea, ciao. Ciao Franco, buongiorno a tutti. Il libro di Paolo Perrone è edito da Le Mani. Allora, da una parte si mangia, dall'altra si conta, potremmo dire. Sono queste le due vene dei vostri libri. Io comincerei con Marco Lombardi, perché il tuo libro, Marco, è tutt'altro che un libro su come la cucina sia stata rappresentata dentro il cinema, ma è un libro sul sapore dei film. Ecco, hanno un sapore i film? Ma io direi di sì, perché spesso e volentieri non ce ne rendiamo conto noi critici quando... vediamo un film, lo definiamo come dolce, dolce amaro, acido, duro, equilibrato, complesso, usiamo già una terminologia enogastronomica, e quindi il passaggio non è così ardito nel tentativo di fare in modo che la critica, sia quella cinematografica che quella enogastronomica, sia un po' meno sclerotizzata sulle solite forme linguistiche, trovi delle modalità che permettano di tirar fuori più quello che effettivamente noi sentiamo, le nostre vere emozioni. E tutto questo nasce, come dicevi bene tu, un lavoro di estrapolazione di profumi, sapori e sensazioni tattili dai movimenti artistici nel cinema, dai generi cinematografici e dai singoli registi. Naturalmente ho fatto una carrellata di 24 registi, perché più di quello non era possibile, in modo tale da creare una sorta nemmeno di linguaggio, ma di ponte associativo che permetta appunto di collegare il nostro sentire associandolo a dei film, nel caso in cui si valuti un vino, oppure associandolo a dei vini, nel caso in cui si parli di un film. Marco, urge l'esempio, bisogna fare qualche esempio. Allora, raccontaci un po', due o tre film di che cosa sanno? Ma guarda, io sono ancora al Noir in Festival a Courmayeur e ho ancora non dico nemmeno negli occhi, nelle papille, quella mezz'ora di sequenza di Avatar, che è stato proiettato poi in anteprima mondiale a Londra, e qui abbiamo visto soltanto delle brevi sequenze, che questo film, insomma, epico in 3D di James Cameron, ci lavora da 14 anni, lavora veramente quasi di una vita. Allora, è un film che usa naturalmente molto la computer grafica, ma di quelle veramente molto avanzate, quindi è un mix di cinema, di fiction normale e anche un po' comunque di animazione. È un tale veramente godimento per gli occhi e anche per le orecchie, che se fosse un piatto mi verrebbe, guarda, un po' forse condizionato oramai dalla mia residenza romana, mi viene da associarlo a una coda alla vaccinara per la sua... ma una cosa da cenare, fatta anche quella secondo la tradizione, ad esempio utilizzando il cacao, che il cui amaro smorza un po' di tonalità grasse e dolciastre, perché ha una tale ricchezza, un tale sugo tra virgolette interno, Avatar, e una tale appunto ricchezza gustativa e anche di colori, che insomma mi sembra veramente che possa essere un piatto molto vicino all'ultimo film di James Cameron. Non so se lui sarà molto contento se verrà a sapere di questa associazione gastronomica, però sì, il pensiero è questo. Lui sarà molto contento se tanta gente andrà a vedere il suo film. Allora, visto che comunque il film di Cameron, Avatar, di cui stiamo così anticipando il gusto, arriverà poi a gennaio ed è un film ad altissima tecnologia, l'altissima tecnologia ci fa pensare ovviamente alla matematica, all'informatica, alla matematica applicata, e noi passiamo come un solo uomo da il nostro Paolo Perrone, che invece ha scritto appunto questo libro, Quando il cinema dà i numeri, legato alle figure dei matematici o comunque alla presenza della matematica nel cinema. Paolo, la prima domanda è questa: la matematica sembrerebbe qualcosa di avulso dalla poesia, da quello che il cinema rappresenta. In realtà non è così. Le vite dei matematici, per esempio, molto spesso sono straordinariamente poetiche e romantiche. E sono tanti i film che hanno la matematica al centro delle proprie storie. Io ho cercato in questo libro di riassumerne alcuni, ne ho trovati una quindicina, ne ho analizzati una quindicina che dal mio punto di vista hanno una sorta di itinerario, un percorso evolutivo. Io sono partito dai bambini prodigio che in alcuni film sono rappresentati, penso a Erasmo il lentiginoso, che è un film molto vecchio con James Stewart, dove c'è un bambino che ha già tutte le sue potenzialità di calcolo ben espresse. Poi lo stesso bambino, anche se è un altro attore in un altro film, per esempio è Nel mio piccolo genio di Jodie Foster. Questo bambino io l'ho visto crescere, analizzando un po' i film di cui ho trattato nel mio libro, l'ho visto crescere e diventare per esempio Matt Damon in Will Hunting, Genio Ribelle, l'ho visto diventare poi anche un professore universitario, un insegnante, penso a Bianca di Nanni Moretti, in cui c'è appunto Moretti che fa l'insegnante di matematica, poi l'ho visto diventare per esempio Russell Crowe in A Beautiful Mind. E quindi c'è una sorta di percorso di crescita anagrafica, se vuoi, di età, ma anche professionale, perché si parte appunto appunto dal bambino prodigio si arriva al docente universitario. Tutto questo però porta con sé una serie di ricadute, perché la potenza di calcolo, la deduzione, insomma le scienze esatte, sappiamo che la matematica è una scienza anche ostica, come dicevi tu, difficile, riverbera su di sé anche una sorta di cortocircuito. Il caso di Russell Crowe, cioè di Don John Nash in Beautiful Mind, è secondo me sintomatico, infatti è un po' un film cerniera nell'ambito del mio libro, perché lì cominciano proprio a ritorcersi su di sé queste straordinarie potenze di calcolo, si scatena una sorta di violenza su se stesso che diventa invece violenza verso gli altri nel caso di Bianca, in cui Moretti, lo ricordiamo, di fatto poi diventa una specie di serial killer. E poi il capitolo conclusivo, diciamo, il paragrafo conclusivo del mio libro in realtà è Cane di paglia di Peckinpah, in cui Dustin Hoffman, giovane professorino di astromatematica, diventa, per difendersi e per difendere la propria moglie dalle violenze di questo gruppetto, no, del paesino della campagna dove si trovano loro, diventa appunto un omicida. Quindi certo, la matematica si è riverberata in tanti motivi, in tante sfumature anche narrative, c'è anche la commedia, perché per esempio L'amore a due facce di Barbara Streisand, c'è lei e Jeff Bridges che sono, e lui che è appunto l'insegnante di matematica, quindi è presente sicuramente nella storia del cinema. Ovviamente la scrematura è stata dolorosissima, molti film non sono rientrati, però insomma questo è quello che mi sono ripromesso di fare. E allora io vi tengo un attimo qui perché poi voglio salutarvi, perché i nostri ascoltatori invece qui fra cibo e matematica stanno aspettando anche di giocare con noi. Allora ascoltiamo la seconda traccia misteriosa del DVD game di oggi. Quel rumore di prima, quello l'ha spaventata? No, quello strumento allora non era ancora in funzione. Quale strumento? È di là, in una stanza adiacente. Vi prego, signor Barnard, non andateci. E non parliamo più di questa storia. Parliamone invece. E dettagliatamente. Ecco. Questo che vedete era il regno di mio padre. Risparmiati almeno questi penosi ricordi. E cosa vuoi che mi risparmi? Non era forse mio padre? Non sono forse il frutto del suo sangue corrotto? Avete sentito Tinte Noir, quasi horror, e un padrino letterario importantissimo alle spalle. Insomma, cerchiamo un po' di aiutarvi, è un classico della letteratura horror gotica, e quindi insomma più tardi avremo un'altra traccia per indovinare. E allora grazie ai nostri colleghi Marco Lombardi e Paolo Perrone che ci hanno raccontato come insomma i libri sfiorino anche tutti i lati, tutti gli aspetti laterali del cinema, ma non per questo meno interessanti. E noi andiamo invece a una rubrica che come sempre è molto seguita, la nostra Trailer USA, che ci apre una vetrina sul cinema americano quando sta uscendo in America, quindi molto molto prima di vederlo in Italia attraverso i suoni originali dei trailer. Come sempre c'è con noi la nostra Micaela Bellisario. Oggi, Micaela, parliamo di It's Complicated, letteralmente è complicato, una commedia in uscita natale negli Stati Uniti che da noi arriverà in primavera, firmata da Nancy Meyers, la regista di What Women Want, ma che contempla anche un cast internazionale con Meryl Streep, Steve Martin e Alec Baldwin. Allora Micaela, di cosa si tratta? Sì, ciao Franco. Beh, il titolo è in effetti ampiamente evocativo. La trama è quella che Truffaut definiva ideale per una storia d'amore, cioè un triangolo tra due uomini e una donna. E It's Complicated è una commedia sentimentale che parla di una donna divorziata, Jane, interpretata da Meryl Streep, con tre figli ormai grandi, che si ritrova a un certo punto della sua vita a fare l'amante dell'ex marito, che nel frattempo ha sposato in seconde nozze una giovane ragazza di nome Agnes. Lei e l'ex marito Jack si ritrovano fuori città insieme per la laurea del figlio e incredibilmente si riaccende la passione. Qua vi facciamo sentire il passo in cui i due si rincontrano in un pub. OMG, I thought he'd never leave. What are you doing here? I've never really known how to live without you. Ecco, probabilmente Jane e Jack, interpretato da Alec Baldwin, durante il loro matrimonio non sono mai andati così d'accordo come in questa situazione in cui si ritrovano amanti clandestini. Ma a rendere le giornate di Jane ancora più eccitanti c'è anche la presenza di un altro uomo, Adam, interpretato da Steve Martin, che è un architetto chiamato a ristrutturare la cucina del ristorante di Jane, che appunto ha un locale a Santa Barbara. Insomma, il triangolo d'amore si fa più complicato del solito. In questo passo Jane racconta alle amiche l'incredibile situazione che sta vivendo. I'm having an affair with a married man. You're not saying. Oh, yes I am. Ebbene, il film pare sia particolarmente riuscito e secondo i commentatori di testate come Los Angeles Times e USA Today ha delle chance per arrivare anche a qualche nomination all'Oscar. Vedremo. Ciao Micaela. Ciao Franco, la prossima settimana e un saluto come sempre ai nostri ascoltatori. La Rosa Purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea, quella dedicata al cinema da vedere in casa, in televisione con qualche recupero eccellente oppure in DVD e Blu-ray. Partiamo subito con i minuti di recupero, con la redazione di Fil TV che come sempre ci consiglia cosa recuperare nella prossima settimana televisiva, ovviamente in chiaro e gratuitamente. Sentiamo quello che è il consiglio di questa settimana da Sara Sagrati. Buongiorno Franco, buongiorno a tutti e bentrovati dalla redazione di Fil TV. Il consiglio di questa settimana è assolutamente natalizio, ma forse anche no, perché si tratta di un sano e bellissimo thriller. Il film è Ore 10, Calma Piatta, che andrà in onda su Rai 2 alle 23.40 di martedì 15 dicembre. È un film australiano, uscito nel 1988, quindi anche un po' i suoi anni, ma interessantissimo per l'uso della suspense, in quanto il regista Philip Noyce è riuscito a costruire un film assolutamente terrorizzante, ma anche divertente, ovviamente, perché ci piace essere terrorizzati, con pochissimi elementi. Ci sono due uomini, una donna e una barca in mezzo al mare. I due uomini sono Sam Neill e Billy Zane e la donna è Nicole Kidman, che allora non era ancora la signora Cruise e con questo film diventò nota in tutto il mondo, si fece notare. Sicuramente questo è uno degli elementi per cui il film è diventato molto famoso poi col tempo, e sebbene molti critici ritengano che sia anche un po' sopravvalutato, sicuramente mantiene ancora il suo fascino di film di suspense. Altro interesse che suscita questo film è la presenza di Billy Zane, che fece il cattivo in mezzo al mare ancora prima di Titanic con questo film. Grazie allora a Sara Sagrati di Fin TV, ricordiamo Ore 10 Calma Piatta, martedì 15 dicembre su Rai 2 alle 23.40. E siamo arrivati alla zona dedicata invece ai DVD e come sempre noi cominciamo con il farvi ascoltare la terza traccia del film misterioso di questa settimana. Poi dove sei, Bartolomeo? Ma Don Medina, io sono Francis Barnard. Te lo dirò io dove sei. Sei sul punto di entrare nell'inferno, Bartolomeo. Nell'inferno! Negli abissi eterni, nel fondo dell'inferno. Nel pozzo dei dannati, nel luogo del tormento, nel regno del terrore. Avete sentito, si parla di un pozzo, il clima, l'abbiamo detto, è horror, c'è un grande autore alle spalle, stavolta lo sveliamo così se siete ancora in dubbio potete arrivarci, ovvero il romanzo era firmato da Edgar Allan Poe e adesso bisogna capire che film è, qual è il grande regista di questo film. La soluzione come sempre la prossima settimana, l'indirizzo la rosa purpurea a @radio24.it per vincere proprio il DVD di questo film. Noi facciamo un passo indietro di 7 giorni e come sempre andiamo ad ascoltare una breve traccia di quelle che avevamo seminato la scorsa settimana. Cosa? Non te ne puoi andare adesso? Lei ha lasciato la pista? C'è la regola numero 2. La regola numero 5 dice che si può ignorare la regola numero 2 se c'è di mezzo una femmina o eventualmente un cagnolino. E questo era L'Era Glaciale 3, il film campione di incassi, almeno per il momento, dal mese di settembre in poi. Lo hanno indovinato per primi e riceveranno il Blu-ray di questo film Flaminia Maradini di Carpaneto, provincia di Piacenza, e Marco Giannini di Lucca. Bravi, siete stati in tanti a indovinare, loro sono stati anche i più veloci. A questo punto noi sui contenuti e sulla qualità di questo Blu-ray andiamo a sentire il nostro super esperto Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, allora sveliamo i segreti tecnici dietro questo prodotto meraviglioso di Fox. Tornano per la terza avventura nell'era digitale i simpatici personaggi preistorici. L'edizione Fox in DVD, ma soprattutto Blu-ray alta definizione, include anche il DVD che propone il film a definizione standard. Abbiamo una qualità assolutamente da riferimento per il Blu-ray nella parte video, per l'audio un DTS in italiano ottimo e uno addirittura in alta risoluzione in inglese. Tantissimi gli extra, ne segnalo due su tutti: il commento dei realizzatori che con produttore Truppa, che viene, dove viene spiegato il processo che ha portato L'Era Glaciale 3, L'Alba dei Dinosauri, sullo schermo, e un bellissimo libro di fiabe dell'era glaciale, una sorta di speciale contenuto interattivo che permette ai più piccoli di creare la propria storia dell'era glaciale selezionando il personaggio preferito. E andiamo allora a sentire le recensioni delle tre proposte, una in più come vi dicevamo ne abbiamo aggiunta in questa settimana che tira la volata al Natale per darvi qualche consiglio in più. Un grande film di un cinema inglese che riattraversa nuovamente i suoi splendori, parliamo di Segreti e bugie di Mike Leigh, sentiamo la clip. Ma non hai mai pensato a me? Sì, certo che ci ho pensato. Ma non puoi rimpiangere quello che non hai mai avuto. E non ti è mai venuto in mente che ti avrei cercato? No, no, non me lo immaginavo. Ti sei pentita di averlo fatto? No. Sono contenta. Non voglio distruggere la tua famiglia, assolutamente no. È solo che ti dovevo vedere. Uscito fuori catalogo, torna nuovamente disponibile grazie ad Angelo Pictures, Segreti e bugie, una storia difficile. Alla periferia di Londra troviamo Cynthia, questa donna di mezza età con un fratello che non vede da tempo, una figlia difficile cresciuta tra mille difficoltà, viene contattata da Hortense, una ragazza di colore che si qualifica come sua figlia, data in adozione subito dopo la nascita. La situazione si complicherà notevolmente quando le due donne si incontreranno e soprattutto quando Cynthia deciderà di portare Hortense alla festa del fratello per il compleanno. Il film è intenso, un dramma psicologico diretto dal regista inglese Mike Leigh, qualità video abbastanza buona, c'è una doppia traccia stereo italiano e inglese, purtroppo non ci sono extra. E parliamo adesso di Harry Potter, perché arriva nelle videoteche Il Principe Mezzo Sangue, uno dei film che hanno incassato di più nella scorsa stagione cinematografica, arriva in DVD e Blu-ray, ma è anche l'occasione per rieditare i primi film di Harry Potter con dei cofanetti da collezione davvero straordinari, in Blu-ray, ma pieni anche di documentazione esclusiva. Insomma, il fenomeno Harry Potter non si spegne mai. Ascoltiamo la clip del Principe Mezzosangue. Vuoi tu, Severus Piton, vegliare su Draco Malfoy nel suo tentativo di adempiere i desideri del Signore Oscuro? Lo voglio. E vuoi tu, al massimo delle tue capacità, proteggerlo da ogni danno? Lo voglio. Penultimo film dedicato alla saga del maghetto più famoso del mondo, nato dalla penna di J.K. Rowling, saga che si concluderà con Harry Potter e i doni della morte. Allora questo Principe Mezzosangue che ci racconta i tempi oscuri che minacciano il mondo dei maghi e quello dei babbani. Dopo il ritorno di Voldemort e la tragica morte di Sirius Black, Harry trova conforto, guida e consolazione nell'abbraccio di Silente. Il film è assolutamente straordinario e arriva grazie a Warner su più edizioni, su tutte sicuramente quella Blu-ray alta definizione con due dischi, appunto in alta definizione, più una copia digitale a definizione standard del film, tantissimi gli extra, su tutti sicuramente il Maximum Movie Mode che offre la visione del film immagine nell'immagine assieme ad approfondimenti su cast e produzione, e poi scene inedite, un anno nella vita di J.K. Rowling e un divertente incontro con cast e troupe. La straordinaria e suadente musica che sentite fa parte della colonna musicale di uno bellissimo film di Alexander Sokurov che si intitola Alexandra. Ne vogliamo parlare perché è un film di raffinata fattura, come sempre del resto nel cinema di questo straordinario regista russo Alexander Sokurov, che aveva già firmato le filmografie, anzi le, i profili cinematografici dei grandi dittatori a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, da Stalin a Hitler, e adesso invece con questa storia ci racconta un po' la pace che cerca una madre che va a visitare un campo di militare russo in Cecenia. Il film appunto si intitola Alexandra. Claudio. Sì Franco, allora il film di Alexander Sokurov grazie a Koch Media arriva in DVD e ci racconta della Cecenia, i giorni nostri. Alexandra è una nonna che ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione per visitare il nipote che presta servizio nell'esercito russo. Passerà alcuni giorni con le truppe scoprendo un mondo composto da individui dietro le cui mimetiche ci sono giovani uomini impauriti e disorientati. Un film straziante sulla guerra senza uno sparo, dove la deflagrazione più grande è quella della parola, degli sguardi e della tragedia di un conflitto bellico. Nel ruolo di Alexandra c'è Galina Vyshevskaya, vedova del violoncellista Rostropovich, che conobbe Sokurov quando il regista girò un documentario sulla coppia. Il DVD è di qualità molto buona, c'è una colonna sonora Dolby Digital, due canali solo in russo ma sottotitolato in italiano. Tra gli extra segnalo il film di 101 minuti realizzato qualche anno fa da Sokurov, dedicato al violoncellista e a sua moglie. E grazie a Claudio Pofi che ci ha raccontato le novità in videoteca. Come sempre il nostro appuntamento con i DVD chiude la trasmissione. Siamo arrivati in fondo alla nostra corsa, alla nostra ora settimanale di cinema. La Rosa Purpurea torna la prossima settimana con altri film, forse proprio il momento topico delle uscite natalizie. L'appuntamento è come sempre per il sabato alle 18 e per la domenica mattina, per chi ci ascolta in replica, alle 9 del mattino. Un saluto da Franco D'Assisi.